A poco più di tre mesi dalla grande celebrazione sabato 23 agosto per il centenario esatto della morte di San Pio X al Santuario delle Cendrole con il Cardinale Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin, proseguiamo la conoscenza di questa figura, di questo pontefice. Lo facciamo continuando a leggere alcuni brani della intervista impossibile realizzata dagli alunni della prima C anno scolastico 96-97 della scuola media statale di Tombolo, che è uno dei paesi dove Giuseppe Sarto svolse il suo servizio. Lì fu cappellano per circa 8 anni. In questa intervista impossibile, ricostruita appunto attraverso documenti storici, fotografie e racconti biografici, l'alunna Chiara chiedeva virtualmente e impossibilmente a Papa Pio X: ci parli della sua entrata in seminario e dei suoi studi. Un mio compaesano, risponde il Papa, il cardinale Monico, allora era patriarca di Venezia e poteva usufruire di alcune borse di studio nel seminario di Padova, a vantaggio di qualche giovane che avesse avuto la vocazione al sacerdozio ma non i mezzi economici, ed era proprio il mio caso. Già vestito in abito talare che la mamma mi aveva cucito con trepidazione, sono partito il 13 novembre 1850. In seminario mi sono applicato agli studi al massimo delle mie capacità e ho ottenuto risultati lusinghieri. Il 10, voto 10 in tutte le discipline. I miei superiori hanno avuto la bontà di definirmi Princeps Scholae, cioè principe della scuola. Poco tempo dopo essere entrato in seminario ero stato nominato prefetto, cioè responsabile degli altri seminaristi. Tutti gli studi dunque a Padova. Legata dunque alla figura di Giuseppe Sarto proprio per i suoi studi seminariali. Sono stato ordinato sacerdote il 18 settembre 1858 a Castelfranco dal vescovo di Treviso, Monsignor Farina, sebbene ancora non avessi l'età canonica. Mancavano infatti 8 mesi ed è stata necessaria la dispensa di Papa Pio IX. Pensate un po', poi lui chi lo sapeva, nemmeno lui lo sapeva che avrebbe preso il nome da pontefice Pio 1858. Quindi pensate che l'Italia era ancora divisa, non c'era stata l'unità d'Italia, non c'era stata la breccia di Porta Pia, il Veneto era sotto la dominazione austriaca, quindi ricordiamoci anche di questi particolari storici. Quando ho celebrato, racconta ancora Papa Pio X, quando ho celebrato con immensa commozione la mia prima messa a Riese, c'era la mia famiglia, però non il papà, il quale era morto qualche anno prima, ma che io sentivo ugualmente vicino. La sua prima nomina, chiede l'alunno Nicola, è stata proprio a Tombolo, il nostro paese. Come lo ricorda? Sono arrivato a novembre dello stesso 1858. Il paese era formato da un migliaio di abitanti, poche case al centro e parecchi poveri cascinali nell'umida campagna. Al centro c'era una montagnola sulla quale troneggiava un olmo gigantesco, ultrasecolare, alla quale forse si doveva l'origine della parola tombolo, da tumulus, cioè montagnola in latino. Devo essere sincero, la nomina per quel posto non mi piaceva e l'ho detto con franchezza anche al vescovo, ma ho accettato l'incarico perché sull'obbedienza non ho mai scherzato. Anche se Tombolo poi non è a distantissimo da Riese, anche per le distanze dell'epoca. Avevo scritto alla mamma una lettera subito dopo il mio arrivo per esprimerle le mie impressioni. Le avevo detto tra l'altro che il paese era cattivotto. Tenete presente che ero al mio primo incarico, avevo solo 23 anni, quindi non ero ancora esperto di contatti con i fedeli. All'epoca, insomma parliamo di 150 anni fa, i seminaristi stavano chiusi negli studi. Adesso invece è molto normale che svolgano l'attività anche durante i loro studi all'interno delle parrocchie, però all'epoca non era così. Col tempo però, racconta ancora Papa Pio X, ho imparato a capire, ad apprezzare la gente. Parecchi erano villici, come si diceva allora, cioè contadini che lavoravano campi in affitto o di proprietà, ma c'erano soprattutto media creatori di bestiame, abili, intraprendenti e abituati alla solidarietà. Il vino accompagnava le loro ciacque e le chiacchiere, li rendeva rissosi e facili alla bestemmia, e io me ne dispiacevo. Avevano sì la bocca grande, ma il cuore ancora più grande. Accadeva spesso che uno di loro, tornando contento dal mercato dove aveva fatto buoni affari, strada facendo allungasse denaro al compagno che tornava avvilito per non aver niente da portare alla famiglia. Si prestavano somme di denaro, anche consistenti, unicamente sulla parola, e tra le famiglie era usanza quotidiana lo scambio di uova, latte, qualche sbesoea di farina, cioè qualche misura di attrezzi, e anche la prestazione reciproca di manodopera. Le donne erano cordiali e ricche di sentimento, attaccate ai loro uomini, che accoglievano con sollecitudine quando tornavano dal mercato e collaboravano negli affari, anche se qualche volta erano maltrattate da loro, come è purtroppo consuetudine diffusa. Gli uomini si fidavano e consegnavano il denaro in custodia alle donne. E dunque entriamo un po' anche nella società del tempo in cui Papa Pio X ebbe modo di svolgere il suo servizio pastorale. Di questa intervista impossibile continueremo a leggere brani anche nelle prossime puntate. A proposito di economia, segnaliamo due appuntamenti in calendario nei prossimi giorni, proprio per questo centenario. Il 23 di maggio, che è un venerdì, alle 20:45 nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna svolgerà un incontro intitolato "Come nasce un'economia di territorio? La chance dell'economia civile", con il professor Stefano Zamagni, Fabio Poles, consigliere di amministrazione della Scuola di Economia Civile e segretario generale della Fondazione Studium Generale Marcianum, con la testimonianza di Gianfranco Scola, che parlerà dell'esperienza di Macrai Est, e di Paolo Belleri con l'impegno della cura sociale e civile del territorio e la fondazione Il Nostro Domani. Il giorno dopo, 24, stesso luogo, auditorium biblioteca di Montebelluna, alle 9, "C'era una volta la città del lavoro, ricerche e testimonianze su un distretto industriale", che è proprio quello di Montebelluna. Dunque l'economia legata alla vita concreta delle persone, come abbiamo capito Pio X già da cappellano incontrò l'economia reale, quella che facevano le persone, anche senza il sistema delle banche, non, certamente non quelle attuali. Poi da lì, da quell'esperienza, nacquero anche le prime banche cooperative, che avevano ancora, diciamo, dei principi sani e non erano inquinate dalla finanza.